Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Good afternoon. Il Federal Open Market Committee ha deciso di alzare il target di riferimento dei tassi dei fondi federali di un quarto di punto percentuale, portandoli dallo 0,25% allo 0,50%. Questa azione segna la fine di una fase straordinaria durata 7 anni, fase durante la quale i tassi di interesse sono rimasti vicini allo zero per supportare la ripresa dell'economia dalla peggiore crisi finanziaria fin dalla Grande Depressione. È stato anche riconosciuto il considerevole progresso fatto per ripristinare il mercato del lavoro, la crescita dei redditi e per migliorare il disagio economico degli americani. L'azione riflette la fiducia della Federal Reserve nel progressivo rafforzarsi dell'economia. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Abbiamo voluto partire oggi in maniera un po' diversa perché obiettivamente l'intervento con cui l'avete appena sentita Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, la banca centrale americana, ha confermato le attese, cioè ha rialzato i tassi di interesse. È un intervento fondamentale, come già anticipavamo ieri, non tanto per l'ammontare dallo 0 a 0,25 a 0,25 a 0,50 e non tanto per la progressione, ha fatto capire la Yellen che sarà infatti un aumento molto graduale nel corso dei prossimi mesi, ma è dal punto di vista simbolico per gli Stati Uniti la fine ufficiale, anche dal punto di vista della politica monetaria, quindi della politica espressa dalla massima autorità monetaria di un paese, la banca centrale, dicevo, la fine della crisi iniziata nel 2008 e che i nostri nipoti, i figli, ricorderanno come la peggiore da quella del 29. Certo, un po' di amarezza ce l'abbiamo noi qui in Europa e in Italia, perché è la fine della crisi iniziata nel 2008 per gli Stati Uniti, noi di crisi ce ne siamo beccate altre due, e mi riferisco all'attacco poi speculativo all'euro fine 2011, spread che schizzavano, e per quello che riguarda l'Italia una terza mini crisi recessiva, quella che ha visto il PIL calare di nuovo in maniera molto pesante nel 2013. Non voglio tornare sul perché gli Stati Uniti siano riusciti in maniera molto energica a uscire da questa crisi, hanno stampato dollari, investito soldi pubblici e pensato in primo luogo alla disoccupazione, che infatti è tornata praticamente sui livelli più che accettabili e precedenti alla crisi, e non voglio tornare sul perché invece noi nell'area euro siamo ancora distanti da questo, la disoccupazione è ancora record, seppure in leggero miglioramento. Abbiamo adottato una strada completamente diversa, il rigore sui conti pubblici, questa ossessione sul deficit anche in periodi recessivi, questa testardaggine tedesco-centrica nel non poter sforare il deficit del bilancio, questa voglia di non spendere soldi pubblici anche quando potevano essere soldi e investimenti di carattere europeo, quindi controllati dall'Europa, senza diciamo andare a pesare necessariamente sul deficit di un singolo paese. Non si è fatto, si è fatto tardi, si sta facendo in maniera imparziale, in maniera parziale, scusatemi adesso, perché sì, Draghi stampa moneta, ma poi non possono investire soldi, non ci sono investimenti pubblici nei vari paesi, e quindi la differenza è tutta lì. Noi abbiamo come obiettivo quello tedesco dell'inflazione, infatti l'inflazione è a zero, diciamo in deflazione, ma la disoccupazione è a record, e gli americani hanno come obiettivo nella loro banca centrale anche, non solo, ma anche la disoccupazione, e infatti hanno avuto modo di portare la disoccupazione ai livelli precedenti la crisi, hanno imbarcato pochissima inflazione, un po' di deficit, e adesso vanno a stringere. Vabbè. Sì, giustamente dice un ascoltatore, perché loro sono stati uniti, noi no, noi non siamo uniti. Andiamo avanti con le altre notizie, ne parleremo nella seconda ora comunque delle prospettive di quello che cambia anche sui titoli di Stato. La reazione del mercato già la conoscete dai nostri GR24 approfondimenti di borsa, più 1,45% Milano, più 2,40% Francoforte, più 1,20 Parigi, meno 0,90 gli Stati Uniti, più 0,80 Londra. L'euro si è mosso poco, nel senso che di solito quando aumentano i tassi di interesse in un paese, cioè quella valuta rende di più, ha un rendimento più alto, si apprezza quella valuta, si sarebbe dovuto rafforzare il dollaro e indebolire l'euro. Allora, intanto l'euro ha già scontato in questi mesi, ricordate quando era quota 1,30, 1,28, 1,34, il rialzo dei tassi americani. Adesso siamo a 1,08, non vicini a 1,06, ma sempre sotto 1,1, per cui in buona parte quel famoso rapporto 1-1, un dollaro a un euro, si sta realizzando. 1,08 è veramente poca cosa. Sì, qualcuno dice che gli Stati Uniti hanno anche una produzione interna di petrolio che li rende quasi autosufficienti. Sì, anche se non è questo il motivo, il petrolio a 38, 34, 35 dollari al barile. No, no, è proprio il tipo di filosofia adottata e l'impatto e l'intervento massiccio che hanno fatto nell'economia. Ma andiamo avanti, perché sennò oggi ci parliamo solo di tassi di interesse. Per quello che riguarda l'euro, oggi non si è spinto sotto quota 1,084. L'Europa andava benissimo questa mattina, poi ha un po' ritracciato. Francoforte è arrivata a guadagnare oltre il 3%. Milano oltre il 2%, andavano bene particolarmente le banche e il settore auto. Oggi infatti Fiat guadagna ancora il 3,80%, Anima Holding il 3,50%, Snam il 3,20%, Prismian il 2,90%, Telecom il 2,90% anch'essa, poi Buzzi, Unice, Mazimut più 2,70%, il 2,5% lo guadagnano CST, Microelectronics, Kena, Green Power, il 2,20% Mediobanca e Popolare di Milano, il 2% il rialzo di Enel e Mediolanum. Di negativo c'è Saipem meno 2,80%, Iux, Net-a-Porter meno 2,50%, Monte dei Paschi meno 1,30%, Tenaris meno 0,5%, come Moncler A2A meno 0,4%. Sull'occupazione, adesso vediamo di capirci, un giorno faremo anche una puntata sulla importanza della fiducia e dell'ottimismo in economia, però anche sulla necessità, sul dato di fatto che non basti quello, lo dico perché sappiamo benissimo che il Presidente del Consiglio si è posto un obiettivo, l'ha dichiarato più volte, di ridare fiducia a questo paese in se stesso. È un elemento, anche una variabile anche economica, la fiducia. Tu hai in questo paese 2.000 miliardi più o meno di risparmi che stanno sotto il materasso o nei conti correnti, perché se non hai fiducia nel futuro né il privato investe, non lo fa l'imprenditore, non lo fa nessuno, e quindi la fiducia è un concetto fondamentale per far ripartire l'economia. Detto questo, non si può negare l'evidenza solo perché bisogna instaurare e instillare ottimismo e fiducia. Cioè, la narrativa va bene, poi però c'è la narrativa che ha a che fare con i fatti. Perché lo dico? Perché al di là di tanti ragionamenti, vedremo a fine anno il consuntivo sugli occupati e disoccupati e che tipo di nuovi occupati si sono creati. I dati che abbiamo sotto mano non sono univoci, sembra per ora che siano più gli occupati a tempo determinato degli occupati a tempo indeterminato, nonostante Jobs Act, nonostante la decontribuzione rispetto al 2014. Ma oggi Mario Draghi, e anzi la Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile, fa notare che in Italia la crisi ha esercitato un impatto avverso ben più persistente sull'occupazione complessiva, che è rimasta, l'occupazione complessiva, pressoché invariata in controtendenza rispetto all'insieme dell'area euro e alle sue economie più piccole. Quindi la BCE dice in Italia l'occupazione è pressoché invariata dal secondo trimestre 2013. Stima anche qual è l'impatto della Banca Centrale Europea dell'afflusso dei rifugiati nei vari paesi. Per quello che riguarda l'Italia, lo 0,2% del PIL, lo 0,35% in Austria e lo 0,2% anche in Germania. Vicenda banche, oggi non faremo un approfondimento sulle banche, però c'è qualche aggiornamento, nel senso che il Presidente del Consiglio ha detto non è il momento della polemiche, meno male che abbiamo fatto il decreto sul salvataggio delle quattro banche. Le critiche al governo sono davvero incomprensibili perché abbiamo salvato 1 milione di persone e purtroppo le regole che ci sono non ci hanno consentito di salvare gli obbligazionisti, sono regole fatte in passato. Renzi ha poi rivendicato una linea di massimo rigore, chiarezza e trasparenza. Faremo tutto il possibile perché chi è stato davvero truffato possa riavere i soldi. E poi l'ENAC, presieduta da Raffaele Cantone, che appunto è stato anche l'uomo a guida e incaricato di gestire tutti gli appalti dell'Expo, il magistrato, scusatemi. Dicevo, Cantone gestirà gli arbitrati per le obbligazioni secondarie colpite dal crack delle quattro banche, così ha spiegato appunto Renzi. Il governo ha salvato 1 milione di persone, 1 milione di correntisti, 1 milione di risparmiatori, e purtroppo le regole che ci sono, che sono state fatte peraltro in passato, hanno impedito di intervenire sugli azionisti e sugli obbligazionisti. Tuttavia, per me non è il momento delle polemiche. Meno male che abbiamo fatto quel decreto che ha salvato la gente. Quanto agli addetti ai lavori, nelle prossime ore cercheremo di fare tutto il possibile perché chi è stato truffato possa riavere i soldi, ma quelli truffati, quelli davvero truffati, e faremo degli arbitrati, e se è possibile l'arbitrato vorrei che fosse gestito non dalla Consob, non da Banca d'Italia, non dal Parlamento, non dal Governo, ma dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di Raffaele Cantone, un soggetto terzo autorevole che è in prima linea contro ogni tipo di ingiustizia. Dunque massimo rigore, massima trasparenza, ma meno male che il governo ha fatto quel decreto, altrimenti 1 milione di persone avrebbero perso i loro soldi. Allora, anche qui chiariamola tutta, in discussione non è il decreto che andava fatto, perché sennò si partiva, e ha ragione il Presidente del Consiglio, se si spostava tutta la vicenda al 1 gennaio parte il bail-in, e lì non solo perdevano i soldi gli obbligazionisti subordinati, quelli senior, gli azionisti, ma anche tutti i correntisti sopra i 100.000 euro. Quindi il Presidente del Consiglio ha ragione nel dire che se non avessero fatto entro quest'anno il decreto, la situazione sarebbe stata di gran lunga peggiore. Questo è verissimo. Altra cosa dimentica di aggiungere, che le polemiche ci sono sul tempismo con cui si è arrivati, cioè in zona Cesarini, senza avere probabilmente capito che l'Europa avrebbe detto no all'utilizzo del fondo tutela sui depositi, che era la soluzione migliore, anche perché erano soldi di privati, non di Stato, e avrebbe tutelato anche gli obbligazionisti subordinati, e senza, da quello che si è capito, avere una vera forza contrattuale in Europa, a Bruxelles, chiedendo conto del perché si andava a considerare aiuti di Stato dei soldi di privati, che sono soldi delle banche sostanzialmente, perché si modificavano le regole o un diverso trattamento rispetto a quanto è avvenuto con i paesi che hanno avuto modo di salvare le loro banche prima, Germania in testa, perché da questo punto di vista non si poteva concepire una deroga, visto che il bail-in non era ancora entrato in vigore e si rischiava di far da cavie, l'unico paese che non ha mai aiutato con un euro le sue banche, e preparare anche i risparmiatori. Invece così non è stato, c'è stato un consiglio dei ministri d'urgenza la domenica. E lì per lì la sensazione che noi abbiamo avuto è che il governo non avesse, o magari aveva capito, quello sta zitto, non avesse veramente capito l'impatto di questa cosa, che per la prima volta gli obbligazionisti delle banche non rivedevano i loro soldi. Non era mai successo in questo paese. A nostro avviso è stato mal consigliato, volutamente o non volutamente, poco interessante, a questo punto non lo sapremo mai. Non hanno funzionato, diciamo, quantomeno nella comunicazione interna, i rapporti con Banca d'Italia e Consob. E soprattutto ha sottostimato la reazione dei primi risparmiatori e l'effetto domino, rischio, effetto panico sul resto dei correntisti e risparmiatori italiani. Questo va detto, perché sennò sembra che le polemiche siano fatte sul nulla. Ogni tanto, Presidente del Consiglio, un pizzico di autocritica. Forse sbagliate anche voi, noi sbagliamo spessissimo, ma un pizzico, se c'è stata questa polemica, se è montata in questo modo, forse la gestione della vicenda non è stata esemplare, lo possiamo dire, o anche noi diventiamo dei gufi o dei criticoni. Vabbè, andiamo avanti, no? Perché delle volte questa retorica costante di dire che tutto va bene, abbiamo sbagliato noi, la polemica è sul nulla, e no, non è che siamo tutti impazziti. È stata gestita male questa vicenda a livello europeo, nei rapporti con le istituzioni, le autorità di vigilanza, che hanno delle responsabilità, evidentemente loro dicono di no, ma qualcuno avrà sbagliato in questa vicenda, e nel modo in cui è stata comunicata all'opinione pubblica. Perché si è preferito dire abbiamo salvato i conti correnti, non capendo l'impatto, ripeto, non solo per le migliaia di correntisti coinvolti, ma anche sul resto di tutti quelli che hanno obbligazioni subordinate o conti correnti in banca, nel momento in cui stava per scattare sta per scattare il bail-in. Ok? Allora, no, basta non dire che è solo colpa della stampa brutta e cattiva. Facciamo pure la classifica alla Leopoldo. Abbiamo visto anche la classifica dei titoli di giornale. Ma per favore, Presidente del Consiglio, quando lo fece Berlusconi fu giustamente criticato quando iniziò a dire i giornalisti a lui non graditi, l'editto bulgaro, Allora, evitiamo certe cadute di stile se vuole fare il Presidente del Consiglio. E anche un po' di ammissione ogni tanto di... Si sbaglia tutti, Presidente del Consiglio. Può sbagliare anche lei, su. Botto di Fonzi erano una copertina, ma non è veramente che lei ci creda. Allora, la Cassa Depositi e Prestiti, ok al piano 2016-2020, risorse per 120 miliardi per la crescita del paese, più altri 100 miliardi dall'Italia e dall'estero. Sarà in grado infatti di attrarre altri soldi grazie allo status di Istituto Nazionale di Promozione. La Cassa Depositi e Prestiti sarà in grado di attrarre altri 100 miliardi. Per il sostegno alle imprese andranno 117 miliardi, lo spiegava già bene nei 100 secondi Alberto Orioli, più 73% rispetto a quanto fatto nel quinquennio precedente. In Italia, l'Italia è in una nuova fase, ha detto il ministro dell'economia Padoan. Lo Stato interviene tramite il mercato per far crescere l'economia, questo per trasformare la ripresa da ciclica in strutturale. L'economia italiana sta crescendo, se guardiamo indietro di 12 mesi la situazione è radicalmente diversa, ma nonostante ciò bisogna continuare nell'azione di politica economica per sostenerla, per renderla robusta, per trasformare una ripresa che in parte è ancora ciclica in una ripresa strutturale. Quindi da questo punto di vista è un fatto che il piano di sviluppo di cassa arrivi quanto mai al momento opportuno, perché è uno strumento di politica economica che si integra con le altre misure prese dal governo e inoltre ha il pregio di collocarsi esattamente a cavallo di quello che serve per la tutela del risparmio e la gestione del risparmio di tantissimi risparmiatori italiani e lo stimolo diretto o indiretto agli investimenti privati e agli investimenti pubblici. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, per WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Restiamo sulla Cassa Depositi e Prestiti perché Claudio Costamagna, che ha una lunga esperienza di banchiere a Londra e poi al gruppo Salini, adesso è il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, ha detto: non ho mai visto un momento come questo di interesse per l'Italia, dobbiamo sfruttarlo e consentire a chi è interessato di scommettere sul nostro paese. E poi ha precisato il piano di 5 anni, quello della Cassa Depositi e Prestiti, perché noi siamo investitori di medio-lungo termine, che è una cosa sempre più rara. Il nostro ruolo è proprio quello di promuovere investimenti sul nostro paese e dobbiamo farlo sempre di più attraverso strumenti di PPP, cioè Public Private Partnership. Nei quattro pilastri che sono un po' i pilastri fondamentali del nostro piano, cioè la pubblica amministrazione, diciamo autorità locali, pubblica amministrazione, infrastrutture, imprese e immobiliare, la chiave è proprio quella di cercare di attrarre capitali che insieme a noi possano sviluppare e dare sostegno all'economia. Io credo che chi mi conosce sa che faccio questo mestiere da circa 30 anni, mestiere diciamo in campo finanziario, non credo di aver mai visto un momento come questo di interesse per carta italiana da parte di investitori istituzionali internazionali. Sia per progetti di infrastruttura che per progetti immobiliari che su imprese italiane. Dobbiamo sfruttare questo momento e dobbiamo cercare di costruire degli strumenti che consentano a questi signori di scommettere sul nostro paese. Le riforme fatte sono state estremamente apprezzate, l'Italia sta veramente vivendo un momento nuovo e dobbiamo approfittarne, sarebbe veramente un peccato non approfittarne, e noi vogliamo mettere al centro di questo nostro piano proprio questa idea. E poi la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti in Metroweb. Allora, Costamagna ha detto che Metroweb e Telecom stanno lavorando a un piano industriale per vedere se ha senso. Sappiamo che su detto Telecom c'erano molte resistenze. Per vedere se ha un senso lavorare insieme su un'infrastruttura per coprire 250 comuni italiani. Se alla fine i risultati saranno buoni, ci siederemo al tavolo con Telecom per decidere come collaborare insieme. Potrebbero esserci interventi sulla struttura azionaria o anche no. La partecipazione attraverso il Fondo Sviluppo Italia di Cassa Depositi e Prestiti in Metroweb è stabile, ha poi precisato il ministro delegato Fabio Gallia, il quale ha anche aggiunto: abbiamo l'intenzione di crescere nel Fondo Italiano Investimenti, siamo al 12,5%. Siamo in una fase diversa rispetto a questi ultimi 7 anni. Sapete cosa è passato? Come è passata l'Italia in questa crisi, che è stata prima una crisi del debito privato, dopodiché è divenuta una crisi di debito pubblico. Abbiamo perso circa 10 punti. Un altro modo per vedere quello che è successo è pensare che il mercato dell'auto è tornato indietro agli anni 70, il mercato del cemento agli anni 60. Eppure siamo qui, e quando guardiamo avanti, pur con tutte le incognite che stanno caratterizzando il nostro contesto, riteniamo di avere davanti degli anni di crescita, per cui anche il ruolo di cassa deve adattarsi a un contesto diverso. Se prima anche alcuni interventi della nostra istituzione sono stati dettati da un momento di crisi, oggi dobbiamo guardare, cercando di dare il nostro contributo ad attivare, contribuire ad attivare le infrastrutture di domani, la competitività di domani e anche l'economia sociale per il domani. Così appunto l'amministro delegato Fabio Gallia. Adesso c'è il metro, la pubblicità, una piccola notizia ancora nelle notizie in breve. Oggi è arrivato anche il nuovo amministratore delegato all'Italia. Allora, si chiama Cramer Ball, è stato nominato membro del consiglio di amministrazione, designato ad assumere la carica di CEO con decorrenza, quindi con inizio dal marzo del 2016. Invece una buona notizia riguarda la Conad, scusatemi, che oggi ha annunciato di, oltre di chiudere il 2015 con un giro d'affari in crescita del 4% a 12,2 miliardi di euro, quota del mercato dell'11,8%, ma che investirà 188 milioni per potenziare e ampliare la rete di vendita con 88 nuovi punti vendita contro i 3.062 attuali, e creerà 1.330 posti di lavoro, 880 dei quali saranno nuove assunzioni. Quindi bene, la notizia è buona, la notizia che arriva dalla Conad. Meteo, pubblicità e poi partiamo col dato sulle esportazioni. Stiamo iniziando con i consuntivi di fine anno. Le esportazioni hanno un po' deluso quest'anno, diciamolo tutto, ma in compenso sono leggermente ripartiti i consumi. Ne parliamo dopo il meteo. 349-238-6666 per gli sms e per WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Focus Economia. Allora, dicevo, di nuovo in diretta chiaramente con Sebastiano Barisoni, dicevamo dei consuntivi che si fanno, si iniziano a fare a fine anno. Noi oggi ci occupiamo dell'export, perché? Perché è uscito il dato che in realtà riguarda i primi 10 mesi dell'anno, il mese di ottobre, meno 0,4% le esportazioni a livello congiunturale rispetto a settembre, e ferme le importazioni. I mercati extra UE fanno meno 1,7%, vanno meglio i mercati europei, più 0,7%. Risente questo anche dell'ampia flessione in valore dei prodotti energetici, però nei primi 10 mesi dell'anno il valore dell'esportazione è cresciuto del 3,5%, quello delle importazioni del 3,3%. In questi casi è molto importante anche vedere il saldo, la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo. È ancora positivo, di 4,8 miliardi, ma l'anno scorso valeva 5,3 miliardi. L'attivo complessivo raggiunge 34,8 miliardi, un po' più alto rispetto all'anno scorso, ma sono aumentate le importazioni. Allora, sono dati buoni, nel senso che non bisogna confondere i piani. A ottobre di quest'anno rispetto all'anno prima abbiamo fatto in Germania più 1,2%, in Francia più 3%, in Spagna più 4%, in Gran Bretagna meno 2%, in Russia meno 20%, Stati Uniti più 3,3, paesi dell'OPEC meno 11, Cina più 1,8%, i settori alimentare più 1,7, tessile abbigliamento meno 3,3, chimica invariata, elettronica più 9, meccanica meno 1,5, arredamento più 5%, mezzi trasporto più 1,3%. Professor Fabio Sdogati, che insegna economia internazionale al Politecnico di Milano, buonasera. Buonasera. Allora, invidia per la Yellen, che può rialzare i tassi anche lei, poi arriviamo adesso alle esportazioni. Allora, noi siamo contenti che i mercati abbiano reagito in maniera positiva a questa cosa. Io continuo a non capire perché. Sarà perché sono nato in un e cresciuto in un periodo in cui alzare i tassi si pensava facesse rallentare. Ma perché il brindisi ufficiale alla fine della crisi iniziata nel 2008, professore? Meno male. Per loro. Lo spiega. Per loro. Noi qua ancora non ci siamo. No, invece, se io dicessi che il 2015, un po' sorpresa, è stato un po' più deludente sul fronte esportazioni, beh, non per colpa nostra, ha frenato la Cina, il Brasile è andato in recessione, la Russia ha continuato a avere i problemi che aveva anche l'anno prima. È un po' più positivo sui consumi? Ma sì, che le cose non andassero bene sul mercato mondiale, lo sapevamo, i numeri che lei ha citato sono tutti numeri i quali ci dicono che sì, forse non è colpa nostra, o comunque non dobbiamo sentirci troppo in colpa. Ha dimenticato un solo numero terribile che ci scarica ancora di colpa, che è quello dell'America Latina, e quindi certo. Ha ragione assolutamente, forse non è tutta colpa nostra. Tant'è vero che dentro l'Unione Europea, quindi essenzialmente diciamo in area euro, siamo andati non bene, però abbiamo tenuto. Quindi questo è un fatto importante, distinguere fra area Unione Europea e area extra-euro. Ecco, c'è chi potrebbe dire questo dato è deludente perché è il 2015 è stato l'anno in cui l'euro ha iniziato a scendere da 1,38, 1,39 a 1,08, quindi non abbiamo, o meglio, abbiamo beneficiato di questo, il che vuol dire che al netto del rapporto dell'euro su dollaro forse sarebbe andata anche peggio. Ma guardi, lei e io abbiamo avuto modo di parlarne, io non ci credo a questa storia dell'euro il quale deprezzando si stimola le esportazioni. C'era una volta in cui il mondo girava così, oggi non gira più così per molte ragioni, possiamo anche discuterne un minuto, essenzialmente si tratta di questo. Come dice anche il presidente dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, nessuna merce è più made in. Forse neanche l'abbigliamento, dice lui, e io sono d'accordo con lui, cioè le merci sono in realtà il risultato di tanti input, di tanti semilavorati, di tanti intermedi che provengono da tante aree del mondo. L'esempio più semplice di tutti è quello di un'impresa che compra intermedi fatturando in dollari e poi vende, esporta sul mercato, diciamo così, compra i pezzi o la materia o i semilavorati che gli servono per fare il prodotto finale, li paga in dollari, poi lo esporta in euro. Lei dice ha un vantaggio quando esporta ma ha uno svantaggio quando compra, alla fine è quasi un gioco a somma zero. E il gioco quindi si sposta su altre cose, tant'è vero che la seconda cosa, Luca, la prima cosa che mi ha colpito di questi dati è questa distinzione UE extra UE, teniamo in Unione e andiamo malino fuori dall'Unione, non per colpa nostra come dice Barisò. La seconda cosa che mi ha colpito è la divergenza fra i prezzi all'esportazione e i volumi all'esportazione. Cioè se io guardo la tabella pubblicata dal governo, dall'Istat, da nessun altro, io vedo che al netto dell'energia, che come lei giustamente fa sballare troppi numeri, ma se togliamo i dati sull'energia, noi vediamo che ottobre 2015 su ottobre 2014 l'indice dei prezzi è salito del 2,2%, indice dei prezzi all'esportazione, volume all'esportazione meno 2,9%. Allora, questo mi preoccupa, cioè cosa facciamo? In un momento in cui il resto del mondo le dice crisi, stiamo aumentando i prezzi a fronte di una riduzione dei volumi, ho capito bene? Esattamente. Allora, professor Togati, siccome poi vorrei fare un piccolo approfondimento anche con chi rappresenta il mondo dell'alimentare italiano, che dove si sta cercando di essere ancora più presenti in mercati fondamentali a partire da quello americano, che ho dimenticato di dirlo ma è la vera riscoperta del 2015, l'America è tornata a macinare non solo crescita quindi anche importazioni. Dopo il traffico vorrei capire da lei che, fermo restando che se crolla il Brasile, rallenta la Cina, l'abbiamo spiegato mille volte, la Russia, non ci possono fare nulla le nostre imprese, che qual è però un invito, un consiglio caldo che lei darebbe al nostro mondo dell'export a partire dalle 4A più forti ma inglobando tutti i nostri punti di forza nelle esportazioni dopo il traffico. Focus Economia. Allora, professor Slogati, fermo restando le condizioni esterne, però per non sedersi sugli allori, se lei dovesse dare uno stimolo, una critica costruttiva, la chiami come vuole, alle nostre imprese, quelle che esportano, quelle di cui lei si occupa, che cosa le chiederebbe in più? Ma allora, la prima cosa che io farei sarebbe consigliare quello che consigliano i finanziari. Gli advisors finanziari, i consulenti finanziari ti dicono prima cosa diversificare nel tuo portafoglio e che quindi tieni azioni, tieni obbligazioni, tieni diversi settori, eccetera. Beh, questo deve essere vero anche per le nostre imprese. Non possiamo pensare alla presenza sul mercato mondiale come al risultato di una scommessa, cioè si scommette sul paese A o si scommette sul paese B. Si scommette sulla propria capacità di produrre e siamo bravi a produrre tante tante cose. Guardo qui i dati sul macchinario, sono favolosi, macchine utensili eccetera, siamo bravi a produrre tante cose. Bisogna essere presenti su più paesi, perché fino ad ora hanno tirato molto per esempio la Russia, il Brasile e la Cina. Ora i primi due sono in difficoltà grave e la Cina rallenta. Bisogna essere presenti su più paesi. Come si fa a fare questo? Ma io sono molto duro, come lo sono da anni. Abbiamo delle capacità imprenditoriali dormienti, cioè noi abbiamo una imprenditorialità potenzialmente fortissima, capacissima, e poi però concepiamo il business un po' come il colpo di fortuna. Allora, ci sono quattro raccomandazioni che si chiamano formazione del personale. Noi dobbiamo formare il personale, noi non possiamo spendere un terzo di quello che spendono le imprese belghe. Cioè noi per la formazione delle imprese mediamente spendiamo un terzo di quanto si spende in Belgio, sì, che non è un paese che ha una grande forza nell'export, mettiamola tutta. Esattamente. Però, secondo punto? Secondo punto sicuramente è pensare in maniera innovativa, non possiamo andare avanti con questa storia dell'abbigliamento. Io sono contento e orgoglioso del fatto che il settore dell'abbigliamento abbia aiutato molto a portare questo paese fuori dalle miserie del dopoguerra, però se guardiamo anche oggi i dati è un settore che perde a livello di esportazioni, cioè cadono le esportazioni pesantemente nell'abbigliamento. Abbiamo tanti settori che vanno bene, tanti settori su cui puntare. Continuiamo per carità a lavorare sull'abbigliamento, ma insomma le macchine utensili, le macchine elettriche, addirittura il settore della pelle va molto bene, quindi c'è domanda per la nostra Europa. Terzo. Formazione. Settori? Non limitarsi. Poi c'è una imprenditorialità, poi c'è una questione sicuramente di assunzioni, cioè noi non possiamo continuare ad assumere nelle nostre imprese persone solo perché costano poco. Io ricevo delle telefonate che mi piacerebbe mettere in diretta, dice, ce l'ha un ragazzo bravo, intelligente, volontarioso? Certo, ce ne mille, perché sono bravi oggi tanto quanto erano bravi. Si dice però che non mi costi troppo. Non esiste. Tu... Sì, perché poi ti chiedi perché vanno all'estero, no? Esattamente. Tu, no? C'è questo bellissimo detto americano che dice you pay peanuts, you buy monkeys. Cioè paghi con noccioline e compri le scimmie, non compri persone di valore. Allora, questo è un investimento che le nostre imprese devono fare. Investimento non vuol dire solo macchinario, investimento vuol dire oggi più che mai capitale umano, quindi torniamo al discorso della formazione, da questo punto di vista dell'assunzione. E poi l'ultima cosa è l'internazionalizzazione, devono internazionalizzarsi. Noi abbiamo fatto una ricerca, cioè l'hanno fatta loro, noi li abbiamo assistiti in Camera di Commercio di Milano, siamo poco internazionalizzati. Siamo andati a vedere. Ma cosa vuol dire in una battuta? Perché ci ha raggiunto in collegamento anche il presidente di Federalimentare, che ha degli ottimi dati oggi, il settore alimentare, ma c'è un'iniziativa ulteriore. Cosa vuol dire internazionalizzarsi? Perché chi esporta uno presume che sia già internazionalizzato, no? L'internazionalizzarsi è un processo. Si comincia, l'abbiamo scoperto questo ormai definitivamente. Si comincia con un'esportazione quasi casuale, poi si esporta in maniera sistematica, poi si stabilisce delle relazioni permanenti col mercato di interesse, che sia un mercato di sbocco o un mercato di approvvigionamento, non importa, si fanno gli affari anche da contare dove la qualità è buona, ma e poi si arriva fino, se si vuole arrivare, per carità, fino all'investimento. Allora, no, si fermi qui, professor Togati, perché appunto ringrazio anche Luigi Scordamaglia, che è presidente Federalimentare ed è il numero uno di una grossa azienda alimentare italiana. Buonasera, Scordamaglia. Buonasera, buonasera a tutti. Voi oggi festeggiate all'interno di questi dati sul commercio con l'estero che i prodotti alimentari hanno fatto più 7% tra i migliori andamenti di tutti i vari settori. Sicuramente sì, ma non ci basta, ecco. Possiamo fare molto di più. Dei quattro punti che ha toccato Sdogati, qual è quello che l'ha colpita di più, dove secondo lei siamo più deboli? Certo, l'internazionalizzazione strutturata, non basta esportare, sono d'accordissimo, non bisogna fare esportazione spot, bisogna creare dei rapporti, delle partnership consolidate di distribuzione nei mercati dove arrivi. Accordi con chi distribuisce, perché a noi mancano le grandi catene, lo spiego a tutti, non siamo la Francia. È un alibi che non regge più, le grandi catene mancano, bisogna sostituirle con delle capacità distributive, delle piattaforme distributive, mettendosi insieme, utilizzando delle piattaforme distributive esistenti, non basta più arrivare col prodotto in maniera spot, devi fornire ogni giorno le grandi catene distributive non solo con la qualità che ci caratterizza, ma anche con i servizi, con la logistica, e questo si fa acquisendo esperienza su un determinato mercato fase dopo fase. Gli Stati Uniti crescono perché cresce la nostra capacità col nostro real made in Italy di essere presente in scaffale, altrimenti non crescerebbe mai. Ecco, dopo arriviamo a questo, perché sugli Stati Uniti allora siamo tutti contenti dei successi che abbiamo avuto. Faccio notare che un dato impressionante, e poi lo ricorderò ancora, nel 94 noi facevamo più o meno 19 miliardi di export di generi alimentari italiani e avevamo il doppio, quindi sui 37-38 miliardi di Italian sounding, che non è falso italiano, è quella cosa che assomiglia all'italiano, è prodotto in Canada e negli Stati Uniti. Il dato drammatico è che adesso siamo arrivati a 30 miliardi di esportazioni nel settore alimentare. Uno dice, bella notizia, abbiamo quasi raddoppiato. Peccato che sia più che raddoppiato l'Italian sounding, cioè prima era un rapporto di 1-1,5, adesso siamo a 1-2, cioè 60 miliardi, il che vuol dire che nel frattempo è talmente tanta la voglia di cibo e di prodotti italiani che abbiamo perso ancora più miliardi rispetto al 94, pur fatturando di più. Non so se il ragionamento è chiaro. Certo, io però vedrei il bicchiere mezzo pieno, sì, più che quello mezzo vuoto. L'Italian Sounding, come lei ha detto, è la reazione a non essere presente. Sì, e ci stavo arrivando. Nel Midwest, nel Centro America, noi non esistiamo, esistiamo a New York, a Chicago, a Detroit, a Los Angeles, a San Francisco, poi vai nel Centro America e non becchi nulla di italiano. Però mi dica una cosa, perché poi su questo la sento anche dopo, Scordamaglia, il punto di Sdogati sugli investimenti nelle persone, perché qua non possiamo È fondamentale, e la maggior parte delle nostre... Però è vero che ogni tanto la tendenza è dire dammelo bravo che costi poco, e poi... Verissimo, verissimo, soprattutto in piccole aziende si pensa di fare delle cosiddette prodotti secchi, tanto è che è stato promosso uno strumento recente che è il temporary manager, anche attraverso ICE abbiamo messo a disposizione delle aziende dei temporary manager formati, ci siamo accorti che molte aziende pretendevano di internazionalizzarsi senza neanche un responsabile vendite che parlasse le lingue dei mercati in cui ci vuole essere presenti, quindi formazione assolutamente sì. E pagarla, formazione e pagare i dipendenti, quando sono bravi ci mancherebbe, cacciare, visto che c'è anche il Jobs Act, quelli che non valgono. Quindi grazie a Fabio Sdogati per il suggerimento, resti con noi Scordamaglia dopo il GR24, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina e WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà, il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Questo weekend, oltre il turismo di massa, mete sempre più personalizzate. Di Anna Rita D'Ambrosio. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Focus Economia. Ciao. 8:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, presidente di Federalimentare Scordamaglia, restiamo in tema di Stati Uniti, visto che commentavamo prima con lei e col professor Sdogati i dati sull'export, e che continueremo a parlare di Stati Uniti perché poi parliamo della manovra della Fed sui tassi di interesse. Visto che noi siamo presenti molto nelle grandi città, ma poco conosciuti, mi riferisco al cibo italiano, nel centro degli Stati Uniti, e che gli Stati Uniti stanno guidando la ripresa, siamo tornati a un vecchio modello, la Cina rallenta, la Russia è ancora in crisi, il Brasile è entrato in una profonda recessione. Voi tempo fa ci avevate raccontato che stavate pensando a un piano di promozione con l'aiuto anche del governo italiano. È il più grande piano di promozione che ci sia mai stato in un paese, in un qualsiasi paese estero, sull'agroalimentare italiano. 50 milioni messi a disposizione dal governo per promuovere tutte le eccellenze agroalimentari italiane. In che modo? Facendo accordi con la grande distribuzione in Texas, Illinois, quindi non solo nei tradizionali, nelle città più grandi, in cui ci si accorda con la grande distribuzione per mettere sempre più prodotti di Real Italia a scaffale, e poi si fa una grandissima campagna di comunicazione nei centri principali, a Times Square, in cui si spiega al consumatore americano la differenza vera esistente tra il Real Italian e l'Italian Sound. In questo modo si pensa di recuperare dei 28 miliardi di dollari che oggi vengono venduti negli Stati Uniti con evocazione di italianità, senza essere realmente italiani, mentre le esportazioni di vero prodotto agroalimentare italiano è appena di 3,5 miliardi. Quindi, cioè, noi negli Stati Uniti esportiamo 3 miliardi e mezzo di alimentare veramente italiano, e nel compenso gli americani mangiano 28 miliardi di cibo non contraffatto, ma che si chiama Italian titolo? Sounding, cioè la bandiera italiana, mozzarella piuttosto che salami. E questa roba qua, e vale noi, anche per il Canada. Mi scusi, ma come sceglierete le imprese da mettere sullo scaffale? Questo non ho capito. La campagna pubblicitaria? Non sceglieremo le imprese. L'accordo con la grande distribuzione è che la grande distribuzione sceglie le imprese. Noi promuoviamo la comunicazione anche a scaffale. Dopodiché la grande distribuzione si impegna ad avere un effetto moltiplicatore di 1,5, cioè su ogni milione investito con la grande distribuzione loro si impegnano a fare almeno 5 volte tanto in termini di nuovi prodotti e di nuove imprese che vengono inserite a scaffale. Cioè si impegnano non solo ad aumentare i volumi di chi già a scaffale c'è, ma di introdurre nuove piccole e medie imprese italiane che sono in grado ovviamente di arrivare con i propri prodotti. Perfetto, in bocca al lupo a tutte le imprese. Ripeto, oggi il dato vostro era particolarmente significativo nell'export, più 7%, il doppio della media, diciamo, dell'export nel mese di ottobre, visto che siamo in periodo di consuntive. In bocca al lupo a tutta l'industria alimentare italiana, che assieme ad altre seguiamo con profondo interesse, anche perché vuol dire 58.000 aziende e 385.000 addetti per circa 132 miliardi di euro di fatturato. È la seconda nostra voce produttiva dopo la meccanica industriale. Grazie al presidente Luigi Scordamaglia, e adesso restiamo in tema di Stati Uniti, ma per parlare della mossa della Federal Reserve. Abbiamo fatto ascoltare in apertura la voce della numero uno della Fed, Janet Yellen, e partiamo però dalla reazione di borsa. Positiva in mattinata, Milano guadagnava più del 2%, Francoforte più del 3%, poi hanno un po' ritracciato, Milano ha chiuso con un rialzo dell'1,5%, Francoforte del 2,60%, Parigi dell'1,1%, Londra più 0,70%, il Dow Jones invece perde adesso lo 0,80%. Bene, a casa nostra Fiat Chrysler, ma lì c'entra anche, dopo i dati sulle immatricolazioni, anche l'annunciata quotazione della Ferrari. Prismian è andata bene, più 2,60%, si è diffusa la notizia di una commessa in Oman, dove Prismian, che è l'ex Pirelli Cavi, è la responsabile del progetto di 85 km di cavo, ma soprattutto ha annunciato ieri l'acquisto del controllo di Oman Cables Industry, e quindi parteciperà, costruirà questa nuova cablatura ad alta tensione per la città di Salalah. I bancari oggi invece più misti, ancora qualche tensione, Monte dei Paschi meno 0,80%, invece meglio si sono comportati altri titoli bancari, mi riferisco alla Pop Milano più 2,50, Pop Emilia Romagna più 2,20 e Banco Popolare più 1,90, bene anche UniCredit e Intesa San Paolo che guadagnano l'1,5%. Telecom in evidenza più 3%, l'entrata nel CDA di Vivendi viene vista positivamente dal mercato, poi c'è attesa per le trattative tra Telecom e MetroWeb, abbiamo sentito prima anche i vertici della cassa, depositi e prestiti, bene anche Atlantia dopo il dato sulla diffusione dei passeggeri a Fiumicino, per il resto Anima Holding più 3,70, Snam più 3,70 anch'essa, Buzzi Unicem più 3%, Azimut più 2,70 e Enel Green Power guadagna il 2,5% come ST Microelectronics e appunto la Popolare di Milano. Negativa Saipem meno 2,60, Jux meno 1,70 e appunto Monte dei Paschi meno 0,80, tra i migliori e peggiori segnaliamo due titoli di cui spesso non ci occupiamo. Allora, Beni Stabili più 6,75%, ha concluso la vendita di un immobile a Telecom per 76 milioni, poi ha firmato un contratto per la cessione di un altro immobile. Bene anche Digital Magix oggi tutto il giorno, ha concluso un accordo con Poste Italiane per monitorare le start-up. Sarà nostro ospite Digital Magix perché è un insieme di incubatori di startup che si sta diffondendo in tutto il territorio, Palermo, Napoli, non solo nel nord. Pininfarina più 32%, i Grandi Viaggi più 7,90, invece sul fronte opposto Borgosesia meno 23, Fiera Milano meno 9%, Trevi meno 7,30, Agronomia meno 5,40%. Questo è il fronte azionario. Per il fronte obbligazionario mi rivolgo invece a una conoscenza della radio, Angelo Drusiani, consulente per Banca Albertini Suisse, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Ringrazio anche il professor Franco Bruni che insegna economia monetaria all'Università Bocconi di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Allora Drusiani, che movimenti avete registrato oggi? Se li avete registrati, perché insomma dal punto di vista valutario oggi si dimostra che il mercato aveva ampiamente scontato nei mesi scorsi l'aumento dei tassi di interesse statunitensi. Prego. Dal punto di vista delle quotazioni dei titoli di Stato c'è una leggerissima tendenza al rialzo dei rendimenti perché un piccolo effetto contagio dal rialzo del rendimento del tasso degli Stati Uniti potrebbe esserci anche in area, nonostante le differenti andamenti delle prospettive del prodotto interno lordo e nonostante in area euro ci possa essere ancora un forte intervento a livello del quantitative easing. Lo dico perché è difficile che ci possa essere così il cosiddetto effetto decoupling, cioè l'andamento divergente dei tassi o dei rendimenti negli Stati Uniti e in area euro, oppure può durare ma per un tempo non lunghissimo. In più non va dimenticato che se la quantità di easing avesse in effetti, la strategia che viene attuata avesse in effetti successo, ciò significherebbe che l'inflazione tenderebbe a salire, quindi di fronte a un'inflazione che tende a salire il primo impatto per quanto riguarda le prime decisioni che prendono le banche centrali è quella di alzare i tassi come stanno facendo negli Stati Uniti. Quindi se ho ben capito le dice nel breve potremmo assistere a una divergenza visto che i tassi di interesse sono un po' più alti adesso iniziano e in prospettiva continueranno a salire negli Stati Uniti, però nel medio termine lei si aspetta una convergenza, cioè andamenti analoghi? Io mi aspetto, sì, giustamente come lei rileva, una convergenza nel corso dei medio termine, quindi entro metà del prossimo anno, non è escluso che i rendimenti anche da euro tendano a salire, non in maniera fortissima, però sicuramente ad esempio a giugno prossimo è molto probabile che si riesca a capire se e quanto la Banca Centrale Americana alzerà ancora in tassi, se davvero alzerà solo 25 centesimi per volta o se accelererà perché magari l'economia va ancora meglio, quindi in quel caso potremmo assistere anche ad un aumento dei rendimenti di area euro più forzato di quanto ci si aspetti. In effetti in area euro non ci sarebbe bisogno di un rialzo dei tassi, però i mercati sono globali e difficilmente possono andare in andamento divergente in area occidentale. Questo per quello che riguarda il mondo delle obbligazioni, titoli di Stato e non solo, che è quello più sensibile in maniera diretta all'aumento dei tassi di interesse, no? Nel senso che i rendimenti dei titoli di Stato seguono in maniera automatica i rendimenti dei tassi di interesse ufficiali decisi dal, o il tasso di sconto, come si chiama, decisi dalle banche centrali. Per capire invece la portata economica, quindi di politica economica, è più complessiva di quanto stabilito ieri dalla Federal Reserve, chiedo un minuto di pazienza ancora a Franco Bruni. Ho il traffico, intanto ringrazio Angelo Drusiani. Allora, traffico 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. As I've often noted, the importance of our initial... Come ho spesso sottolineato, l'importanza di questo iniziale aumento dei tassi non dovrebbe essere sopravvalutato. Anche dopo l'incremento di oggi, la posizione della politica monetaria rimane accomodante per sostenere così un ulteriore miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro e favorire un ritorno dell'inflazione verso l'obiettivo del 2%. Come abbiamo indicato nella nostra dichiarazione, ci attendiamo che le condizioni economiche evolveranno in un modo tale da giustificare un aumento dei tassi solo graduale. I tassi di interesse resteranno quindi per qualche tempo al di sotto dei livelli che dovrebbero poi raggiungere nel lungo termine. E questo è un secondo passaggio dell'intervento di ieri della Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen. In quello con cui abbiamo aperto il programma, lei citava giustamente la fine di un'epoca. E che epoca, fine per gli Stati Uniti. Noi siamo ancora invece con gli effetti della recessione, sono tornati a tutti i livelli macroeconomici americani, PIL, vendita delle case, disoccupazione, sono tutti a livello pre, diciamo 2008, pre crack Lehman Brothers. Però nel dire fine di un'epoca, professor Bruni, la Yellen poi ha anche aggiunto: attenzione, non esagerate il significato di questo nostro primo aumento di tassi dal dicembre del 2008, che non venivano più toccati e rialzati era dal 2006, e abbiamo appena sentito, dice, lo faremo molto molto graduale. Questo, diciamo, deve spegnere ogni entusiasmo su un'America che riparte con tassi di interesse e rendimenti? Io credo che non sia facile per la Fed realizzare anche tecnicamente un aumento di tassi rapido, perché il mercato è pieno di liquidità che va riassorbita, altrimenti i tassi non salgono, quindi hanno pronto una serie di tecniche particolari e ne inventeranno altre nei prossimi giorni per cercare effettivamente di portare il costo del denaro leggermente più in alto, ma anche tecnicamente non è facile. Non parliamo poi delle difficoltà politiche che hanno, perché c'è una parte, diciamo, che non vuole. E le difficoltà della lobby diciamo finanziaria, che vedrebbe in pericolo dei portafogli molto rischiosi che si sono andati formando in questi anni e che hanno investito liquidità praticamente gratuita in titoli e in generale in avventure finanziarie molto molto rischiose, che verrebbero essere messe in discussione da quindi per forza la Yellen deve andare piano. Ecco, restiamo un attimo su questo punto, professor Bruni, perché molti ascoltatori ci scrivono, non capiscono, ma insomma, se l'America è veramente tornata ai livelli del 2007 e i dati sono quelli, se è un'economia che va bene, perché tanta prudenza? Questo è l'aumento dei tassi più annunciato, più spiegato, più riannunciato e rispiegato forse della storia della politica monetaria mondiale. Cos'è che spaventa la Fed? Cioè, se tu hai i dati macroeconomici positivi, se la banca centrale, da che mondo è mondo, inizia a alzare un po' i tassi perché l'economia è ripartita molto bene, non vuoi che si surriscaldi. E perché allora questa prudenza per alcuni eccessiva? Perché se nascono delle aspettative di rialzo dei tassi molto forti, alcuni dei tantissimi personaggi, istituzioni e banche e fondi indebitati, largamente indebitati, a tassi quasi nulli o a tassi addirittura negativi in questo periodo, si trovano in difficoltà, devono liquidare l'attivo, ne devono precipitare una situazione che dal punto di vista finanziario è molto molto precaria. Gli Stati Uniti vanno bene sul piano reale, hanno ridotto la disoccupazione, in certi settori hanno ripreso a investire, però hanno dei punti di fragilità enorme e soprattutto c'è tutto un mondo finanziario a livello globale che è drogato da liquidità, la quale non viene tolta rapidamente, quindi rimane lì ed è in pericolo. A un certo momento la gente rischia di dover vendere i titoli e gli attivi che ha, quindi per forza ci vuole gradualità. Molta gradualità. Lei ha detto che è stato annunciato, non c'è dubbio che è stato annunciato, però la Yellen alla fine si è rivelata, diciamo, meglio di quel che sembrava, è riuscita a giocare e forse Greenspan peggio di quello che sembrava. La sua partita è riuscita a giocarla abbastanza, però diciamo ha fatto diverse finte e ha avuto delle esitazioni fino al mese scorso, per cui il mercato è stato disorientato per parecchio tempo. Ieri nella conferenza stampa che ha fatto ci sono stati due giornalisti che hanno accusato la Banca Centrale di essere priva di credibilità e quindi gli hanno chiesto chiaramente come fa a riconquistarla, e lei è stata abbastanza brava nel rispondere, ma vuol dire che la sua situazione è tutt'altro che robusta, ecco. Quindi diciamo è un camminare sul filo del rialzo dei tassi di interesse, però senza da un lato mettere in difficoltà tutti quelli che si sono indebitati con i tassi a zero, sì, o sotto zero, perché blocchi le attività, e dall'altro senza, da questo punto di vista, crearsi troppi nemici, aggiungo io, perché sappiamo che il peso, ahimè, della lobby di Wall Street è ancora potentissimo poi senza avere troppe responsabilità, perché il problema è che queste banche centrali oggi si sono prese indirettamente la responsabilità di tirar su l'economia, mm-hmm, e non sono in grado di farlo da soli, quindi nemmeno l'inflazione riescono a tirar su da soli, perché i prezzi dipendono da tante cose. Si sono lasciati trascinare in una posizione di responsabilità che devono pian piano fare svanire, rendendosi meno ambiziosi di fronte all'opinione. Beh, questo vale però in America, però per dove anche c'è stato in America c'è stato un accordo, diciamo, quasi politico. La Fed stampava dollari, il governo americano faceva investimenti pubblici, aumentava il deficit e assorbiva questi dollari. Da noi abbiamo un Mario Draghi che è intervenuto prima per salvare l'euro e poi per, passatemi il termine, aggirare la rigidità o lo stallo completo dell'Unione Europea, in cui la Germania metteva il veto a qualunque politica, diciamo, espansionistica, e Draghi vi rendo più facile l'acquisto di denaro. Perché dice anche Draghi però è pieno di titoli, anche lui, di titoli di Stato che sono probabilmente difficili da rimborsare, come quelli greci. Quindi sa, anche Draghi si è preso delle responsabilità formidabili e tutti guardano a lui come il salvatore dell'Europa, mentre invece lui non può salvare proprio niente, può salvare un po' di banche se falliscono, ma l'economia europea deve tirarsi su da sola con dei provvedimenti di altro tipo, politici, sono i politici che devono muoversi, non può essere Draghi. Quindi anche ma infatti lui, l'anomalia nostra, mi scusi, è che mentre in America, negli Stati Uniti, la politica si è mossa di pari passo con la banca centrale o che quindi si sono parlati, da noi tu hai una banca centrale che a cui impropriamente viene chiesto di dare ossigeno all'economia, perché Bruxelles e questa Unione Europea non ne vuole sapere di trovare formule di finanziamento, di investimenti, di cui parlavamo in apertura, e quindi mantiene un eccesso di rigore sui conti pubblici dei vari paesi, nonostante si sia da pochissimo, in maniera molto fragile, fuori dalla recessione. Un'ultima battuta: questa mossa della Yellen per quanto creerà, secondo lei, una divergenza tra Federal Reserve e BCE? In questo momento la BCE vuole tenere i tassi bassi e stampare denaro, la Yellen ha iniziato a fare una politica un po' più di rientro. Quanto durerà? Io spero che anche Draghi abbastanza presto si assuma meno responsabilità e capisca che messi di fronte alle loro responsabilità i governi potrebbero reagire meglio che non attraverso queste promesse di liquidità a più non posso che dovrebbero con la bacchetta magica sollevare economie che hanno bisogno di ben altro che di moneta per funzionare. Hanno bisogno di investimenti, immagino. Hanno bisogno di investimenti, hanno bisogno di riforme, soprattutto delle pubbliche amministrazioni, di riforme fiscali, di armonizzazioni fiscali, di mercato unico, hanno bisogno di strategie di politica estera, hanno bisogno di cambiare le classi politiche. Invece qui siamo tutti a guardare Francoforte come se potesse sostituire tutto il resto. Questo è un'idea che va allontanata e io spero che Mario Draghi capisca molto presto che deve fare qualcosa per lanciare un segnale in questo senso. Sì, che non scarichino su di lui la incapacità di scegliere, di decidere a livello politico. Grazie anche al professor Franco Bruni, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Bresioni vi auguro di una buona serata, ci risentiamo domani, visto che, che Bruni parlava anche della riforma della pubblica amministrazione, domani torna la nostra classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione. A domani. Radio 24. La passione si sente.